Torna la 14ª edizione del Festival Internazionale delle Zuppe e torna proprio qui a Bologna. Ovviamente protagonista saranno le zuppe, ma vi aspettano tantissimi laboratori, eventi, musica e giochi. E io sono qui a parlarne con Lidia, che è una delle organizzatrici del festival. Ciao Lidia, è un piacere averti in collegamento telefonico. Ciao Martina, piacere. Come prima informazione, le informazioni fondamentali: dove e quando si terrà, quando si potrà appunto trovare il Festival delle Zuppe? Quest'anno sarà la settimana prossima, sabato 17 maggio, che è una specie di preludio alla gara ludica delle zuppe che si terrà domenica 18 giugno. Sabato troverete però già tanti concerti e soprattutto in tutto il parco Pasolini troverete ben 14 laboratori gratuiti ai quali potete partecipare. Quindi l'appuntamento è per sabato 17, domenica 18 maggio al parco Pierpaolo Pasolini del Pilastro. E ti chiedo proprio qual è il programma, cioè gli eventi in programma che si potranno trovare. Ecco, comunque un festival aperto a tutti. Esatto, è molto importante perché è un festival veramente intergenerazionale che cerca di essere il più inclusivo possibile ed è anche gratuito, praticamente non ha nessun costo, e anche chi ancora vuole iscriversi per fare una zuppa, perché è una gara ludica di zuppe dove c'è anche un premio, e la gara significa che c'è una giuria popolare, che tutti quelli che vengano muniti da ciotola e cucchiaio vengano, assaggiano le zuppe in gara, sono una quarantina, e dopodiché possono andare alla cabina elettorale per eleggere la miglior zuppa secondo il proprio gusto. Questo forse è anche interessante sapere: i vincitori o le vincitrici della miglior zuppa popolare e di qualità andranno in un altro festival della zuppa, e quest'anno andranno vicino a Parigi a Île Saint-Denis, che faranno un festival della zuppa ad ottobre, e poi anche a Monte Acuto Ragazza, dove andranno gli altri vincitori. Ti chiedo, chi vuole partecipare alla gara delle zuppe, come fare? Cioè come partecipare, come iscriversi? Sì, o uno si iscrive via mail, alla mail festivalzuppa@gmail.com, o va su Instagram Festival della Zuppa Bologna e là trova anche tutte le indicazioni come iscriversi. Uno può andare direttamente tramite un link, compilare il form per iscriversi. Si può leggere anche tutto il programma e anche come iscriversi sul sito che si chiama cameredaria.net. Comunque appunto 14ª edizione, quindi 14 numero che pesa, che si riconferma appunto anche quest'anno questa edizione, ma da dove nasce il Festival della Zuppa? Il Festival della Zuppa nasce a Lille in Francia, che è nato come un progetto per creare praticamente coesione sociale, perché è nato in un quartiere multietnico e non è, la convivenza è una cosa che bisogna imparare, e quindi si sono chiesti tutti quanti che cosa è che ci divide, perché cosa è che ci unisce, e hanno visto che tutti, in tutte le culture, tutti hanno la zuppa, e quindi così è nata l'idea di unire tutti quanti intorno ad una sfida gioiosa di zuppe che ciascuno presenta. E a Bologna esiste dal 2006, e la prima edizione l'abbiamo fatta a Corticella, a Bologna, dove siamo rimasti fino al 2015, e dopodiché ci siamo trasferiti al Pilastro. E quindi appunto siete arrivati fino a qui oggi. Quindi un programma ricchissimo, veramente tanti laboratori, tanti eventi, tantissima musica con diversi concerti live. Quindi non ci resta che aspettarvi il 17 e il 18 sì. maggio al parco Pierpaolo Pasolini del Pilastro per divertirsi appunto insieme. Comunque appunto 14ª edizione, quindi 14 numero che pesa, che si riconferma appunto anche quest'anno questa edizione, ma da dove nasce il Festival della Zuppa? Il Festival della Zuppa nasce a Lille in Francia, che è nato come un progetto per creare praticamente coesione sociale, perché è nato in un quartiere multietnico e non è, la convivenza è una cosa che bisogna imparare, e quindi si sono chiesti tutti quanti che cosa è che ci divide, perché cosa è che ci unisce, e hanno visto che tutti, in tutte le culture, tutti hanno la zuppa, e quindi così è nata l'idea di unire tutti quanti intorno ad una sfida gioiosa di zuppe che ciascuno presenta. E a Bologna esiste dal 2006, e la prima edizione l'abbiamo fatta a Corticella, a Bologna, dove siamo rimasti fino al 2015, e dopodiché ci siamo trasferiti al Pilastro. E quindi appunto siete arrivati fino a qui oggi.